Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Yes, honey? You just bought another load of crap from the world's fattest fertilizer salesman. You'll pay for ruining this golden family moment! Homer! Sometimes I think

So, you want some of my electricity, do you? Well, for once, the rich white man is in control. I have two buttons behind this desk. One will supply your town with power. The other releases the hounds. Reach me. Make me your brother. The hospital's generator is about to give out. Lives will be lost. Lives lost. Go on. We got a convict we were going to fry tomorrow, but now we can't. Tempting. Tempting. Look, all our reasons mean nothing. Just look into your heart, and you will find the answer. First door on the right. Thank you. Erano questi gli islandesi Singapore Slang, ascoltati con Life is Killing My Rock and Roll. Ed ora, per chiudere la puntata di quest'oggi di Eclettica, ci si sposta a Napoli, in quanto è in uscita il nuovo dei 24 Grana, che verrà presentato con uno showcase, ovviamente, nella loro Napoli, il 6 di marzo. Un album intitolato Ghost Writers, che è accompagnato da un libretto che è spesso quanto, se non di più, il CD stesso. La confezione del CD stesso infatti è esterna rispetto al CD, un libretto in cui sono contenute non solo i testi, canzone per canzone, ma dove ogni canzone è accompagnata da una storia, da una serie di tavole. Non sono, diciamo, fumetti, perché non ci sono parole all'interno di queste tavole, quindi fumetti muti che descrivono la storia di ciascuna canzone. Ghost Novels è il titolo del nuovo dei 24 Grana, che vede anche la collaborazione nel brano che vi sto per far ascoltare di Riccardo Sinigaglia. Questa è Avere una vita davanti. Sera. Un carico di diamanti e il suono assordante di una sirena. Sparare a un nemico alla testa, poi correre al sole d'estate. Se ieri ero ancora un ragazzo, da oggi sarò un vagabondo. La vita è così. Si spezza al mattino e si arriva alla sera. I platani intorno a un'aiuola mi straio a guardar la risacca del cielo. Quei toni d'azzurro mi fanno davvero apprezzare i colori al sole d'estate. Se ieri ero ancora un bambino, domani sarò un vagabondo. La vita è così, si accende al mattino e si spegne la sera. Al mattino e si abbassa la sera. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 16, volume numero 2. Indice, Devochka, Frightened Rabbit, Newt, The Antlers, Ampliv vs. Radiohead, Lady Hawk, Maya, Malcolm Middleton, Chick Chick Chick, Singapore Slang, 24 grana, con Riccardo Sinigaglia. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.